Componimento quarto dei canti di Giacomo Leopardi. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Nelle nozze della sorella Paolina. Poi che del patrio nido i silenzi lasciando e le beate larve l'antico error celeste dono, c'abbella agli occhi tuoi quest'ermo lido, te nella polve della vita e il suono tragge il destin, l'obrobriosa etate che il duro cielo a noi prescrisse, impara, sorella mia, che in gravi e luttuosi tempi l'infelice famiglia all'infelice Italia accrescerai, di forti esempi al tuo sangue provvedi. Aure soavi l'empio fato interdice all'umana virtude, né pura in graci il petto alma si chiude. O miseri, o codardi, figlioli avrai, miseri eleggi, immenso tra fortuna e valor dissidio pose il corrotto costume. Ahi, troppo tardi, e nella sera dell'umane cose acquista oggi chi nasce il moto e il senso. Al ciel ne caglia, a te nel petto sieda questa sovrogni cura, che di fortuna amici non crescano i tuoi figli e non di vile timor gioco o di speme, onde felici sarete detti nell'età futura, poiché, nefando stile di schiatta, ignava e finta, virtù viva spreziam, lodiamo estinta. Donne, da voi non poco la patria aspetta, e non in danno e scorno dell'umana progenie al dolce raggio delle pupille vostre il ferro e il fuoco domar fu dato, a senno vostro il saggio e il forte adopra e pensa, e quanto il giorno col divo carro accerchia, a voi s'inchina. Ragion di nostra etate io chiego a voi. La santa fiamma di gioventù dunque si spegne per vostra mano, attenuata e franta da voi nostra natura, e le assonnate menti e le voglie indegne, e di nervi e di polpe scemo il valor natio, son vostre colpe? Ad atti egregi è sprone amor chi ben le stima ed alto affetto maestra è la beltà. D'amor digiuna siede l'alma di quello a cui nel petto non si rallegra il cor, quando a tenzone scendono i venti e quando nembi aduna l'Olimpo e fiede le montagne il rombo della procella. O spose, o verginette, a voi chi de perigli è schivo e quei che indegno è della patria e che sue brame e suoi volgari affetti in basso loco pose, odio mova e disdegno, se nel femmineo core d'uomini ardea non di fanciulle amore. Madre d'imbelle prole, v'incresca esser nomate i danni e il pianto della virtude a tollerar s'avvezzi la stirpe vostra, e quel che pregia e cole la vergognosa età con danni e sprezzi. Cresca alla patria e gli alti gesti e quanto agli avi suoi deggia la terra impari. Qual de vetusti eroi tra le memorie e il grido crescean di Sparta i figli al greco nome, finché la sposa giovanetta il fido brando cingeva al caro lato e poi spandea le negre chiome sul corpo esangue nudo, quando ereddia nel conservato scudo. Virginia, a te la molle gota molcea con le celesti dita, beltade onnipossente, e degli alteri disdegni tuoi si sconsolava il folle signor di Roma, eri pur vaga ed eri nella stagion ch'ai dolci sogni in vita, quando il rozzo paterno acciar ti ruppe il bianchissimo petto e all'erebo scendesti volonterosa. A me disfiori e scioglia vecchiezza i membri, o padre, a me s'appresti, dicea la tomba, anzi che l'empio letto del tiranno m'accoglia, e se pur vita e lena Roma avrà dal mio sangue, e tu mi svena. O generosa, ancora che più bello a tuoi dì splendesse il sole ch'oggi non fa, pur consolata e paga, è quella tomba cui di pianto onora l'alma terra nativa. Ecco, alla vaga tua spoglia intorno la romulea prole di nova ira sfavilla. Ecco, di polve lorda il tiranno i crini e libertade avvampa gli obliviosi petti, e nella doma terra il Marte latino arduo s'accampa dal buio polo ai torridi confini. Così l'eterna Roma in duri ozi sepolta femmineo fato avviva un'altra volta. Fine del componimento quarto.